Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il lonfo non va terca, negluisce. E molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego, abisce, bisce, sdilenca un poco, e gnagio s'archipatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupigna, a rafferia malversa e sofolenta, se cionfi ti sbiduglia e t'arrupigna, se lugri ti botalla e ti criventa. Eppure il vecchio lonfo ammargelluto che bete e zucchia e fonca nei trombazzi fa legica busia e fa gisbuto e quasi quasi in segno di smerdazzi gli affarfereschi un niffo, ma lui zuto talloppa, ti svernecchia e tu l'accazzi. L'inconfondibile Gigi Proietti ci stupisce sempre per la sua bravura, ma questa volta lascia proprio senza fiato. La poesia che abbiamo appena sentito è Il lonfo del poeta fiorentino Fosco Maraini, inventore della metasemantica. Questa tecnica letteraria consiste nell'utilizzo di parole prive di senso ma dal suono familiare, che ognuno può interpretare come vuole. Non è facile declamare un testo del genere perché la mancanza di significato non aiuta il ricordo nella recitazione, ma questo non è certo un problema per un grande attore come Proietti. Se la metasemantica di Maraini è una tecnica puramente linguistica, tesa a stupire e a divertire, esistono invece utilizzi di parole o frasi con un significato non decifrabile o addirittura oscuro che hanno uno scopo ben preciso. Ad esempio, quello di creare un codice segreto. Si chiama crittografia, il complesso delle tecniche di trasmissione dei messaggi in maniera tale che il loro significato resti oscuro a ogni possibile intercettatore indesiderato. Già Giulio Cesare, quando mandava le sue missive di guerra, era solito sostituire le lettere dell'alfabeto latino con la lettera tre posti più avanti. Tecniche molto più sofisticate vengono impiegate durante i conflitti bellici più recenti. È rimasto famoso il codificatore Enigma, come ricorda Claudio Stirpe, del Dipartimento di Matematica dell'Università di Roma alla Sapienza. Ad esempio, molti conoscono la storia di Enigma, la famosa macchina codificatrice del Terzo Reich, che venne trovata dagli inglesi e poi sfruttata da questi per decodificare i messaggi dell'esercito tedesco. Ma se l'inventore di Enigma, Arthur Scherbius, si impegna tanto per creare un codice indecifrabile e impedire quindi la comunicazione con chi non conosca la chiave di lettura, la storia è ricca invece di inventori che dedicano la propria vita a creare sistemi di comunicazione che permettano alle persone di parlarsi e mettersi in contatto anche a grandi distanze. La necessità di comunicare è presente da sempre, in ogni civiltà e in ogni epoca. Già gli antichi greci usano i falò e per la trasmissione diurna segnali sonori sia di strumenti a fiato che di percussioni. Per distanze ancora maggiori, ecco i segnali di fumo, comunemente associati ai nativi americani. Al tempo dell'antica Roma esiste una fitta rete di corrieri che trasportano lungo le strade consolari le tavolette di cera con incisi i messaggi. Un altro mezzo particolarmente usato in ambito militare in diverse epoche è il piccione viaggiatore, che però non compie lunghe distanze. Fino all'Ottocento la corrispondenza è cartacea e viene recapitata dai servizi postali. Vengono utilizzati i corrieri, che impiegano settimane e anche mesi per la corrispondenza intercontinentale. Negli Stati Uniti, in seguito alla scoperta dell'oro in California nel 1848, si sviluppa un sistema di corrieri specializzati nel collegamento tra le due coste, Atlantica e Pacifica. Si chiamano i Pony Express. Con il progredire della società e degli scambi commerciali e culturali, si avverte sempre di più l'esigenza di poter comunicare a distanza con facilità e rapidità. Sono molte le situazioni nelle quali un abbattimento delle barriere spazio-temporali può modificare il corso della vita delle persone. È quello che sta pensando un uomo, oramai anziano, mentre tiene tra le mani una lettera sbiadita e consumata dal tempo. La conserva gelosamente da 47 anni e ogni tanto la ritira fuori. Le accorate parole di suo padre gli arrivano quando ha 33 anni e una vita già ben definita. Eppure quelle righe cambiano per sempre la sua esistenza. Sulla busta il suo nome è scritto per esteso con mano tremante ed emozionata. Samuel Finley Breeze Morse. Samuel Finley Breeze Morse. Nella solitudine della sua magnifica tenuta, Locust Grove, a Poughkeepsie, appena fuori New York, Samuel Morse legge quelle fatali parole del padre e il suo pensiero ritorna inevitabilmente indietro nel tempo. Pennelli grandi, pennelli più piccoli, tavolozza, tele bianche e acqua ragia, qualche strofinaccio e uno sgabellino, il cappello parasole per la testa ed è tutto pronto. Il piccolo Samuel freme per la gioia. Sta partendo per una gita con suo padre. La destinazione è semplicemente spettacolare. Le magnifiche anse del Mystic River, il placido fiume che costeggia Charleston, la sua città, per poi unirsi al Charles River e sfociare nella vicina baia di Boston. Sono già alcuni anni che Samuel dipinge. La sua non è semplice passione infantile, è un dono. Senza essere andato a scuola da nessun maestro di pittura, egli conosce le tecniche ad acquarello e ad olio, si intende di chiaroscuri e di prospettive, e nei ritratti sa cogliere l'anima delle persone. Per il padre Jedidiah, pastore calvinista, è un segnale della benevolenza divina. La sua capacità tecnica scaturiva dalle mani, allora piccole e paffute, con una semplicità che aveva del mistico. I ritratti che aveva iniziato a fare copiosi, a noi, della famiglia, apparivano ancora più veri degli originali, ma con qualcosa in più. L'essenza stessa della persona era lì, su quelle tele. Un dono così va assolutamente assecondato. Ecco perché Jedidiah, che svolge anche la professione di geografo, conduce spesso Samuel nella natura perché possa coglierne le bellezze e alimentare il suo spirito. Quando Samuel decide di andare all'università di Yale, suo padre sente una stretta al cuore. Con il misero stipendio di pastore non può permettersi la carissima retta scolastica, ma non ha fatto i conti con le dosi eccelse di suo figlio. Dipingendo e vendendo i suoi magnifici quadri, il giovane si mantiene agli studi benissimo da solo. Tra le materie che sceglie, oltre a religione e storia dell'arte, frequenta anche due corsi un po' inconsueti, veterinaria equina ed elettricità applicata. Gli animali li ama moltissimo fin da piccolo, e il cavallo, in particolare, lo affascina enormemente. Intende studiarlo bene per poter realizzare dei bei ritratti equestri. Per quello che riguarda l'elettricità, invece, la faccenda è tutt'altra. Samuel è curioso di saperne di più su questa nuovissima scienza di cui per il momento si sa ben poco. Ma è la pittura, la sua passione, e così una volta laureato, parte alla volta dell'Europa. Londra e Parigi lo attendono. Samuel Morse ha solo 20 anni quando entra in contatto con il mondo artistico inglese. Alla Royal Academy studia in particolare l'arte neoclassica del Rinascimento. E poi lo affascinano Michelangelo e Raffaello, che sicuramente influenzano il suo stile. Samuel è soddisfatto della vita che riesce a condurre in Europa. I suoi quadri iniziano ad essere apprezzati nella società inglese e si sta facendo un nome. Ma le sue mire sono altrove. Lui è nato in America ed è lì che vuole affermarsi. È con spirito quasi pionieristico che rientra in patria portando con sé tutto quello che ha imparato nel vecchio mondo. Mentre dipinge nel suo studio di ragazzo, sente di essere maturato a tal punto da potersi proporre come ritrattista storico. Siamo agli inizi del XIX secolo e i nobili, le persone facoltose e le dame dell'alta società commissionano regolarmente i propri ritratti agli artisti più in voga del momento. Ma non si tratta solo di una moda. Per gli uomini politici un ritratto azzeccato può essere più utile della miglior campagna pubblicitaria moderna. È ciò a cui mira Samuel Morse, cogliere l'anima degli uomini più potenti d'America per restituirla al popolo. Mentre è intento a questi pensieri, riceve una lettera che cambia per sempre la sua carriera di pittore. Sono stato il secondo presidente degli Stati Uniti d'America, ma il suo ritratto, caro Morse, dovrà farmi ricordare da tutti come fossi il primo. E non mi faccia troppo vecchio. John Adams, succeduto al primo presidente degli Stati Uniti d'America, George Washington, uomo influentissimo nella politica di quegli anni, vuole un ritratto da lui. Samuel Morse fa fatica a reggere l'emozione, sa perfettamente che riuscire ad accontentarlo, riuscire a rendere l'essenza di quell'uomo, significa automaticamente veder decollare la sua attività. Significa la sua consacrazione come pittore. Ed è quello che puntualmente avviene. La sensibilità di Samuel Morse, unita alle sue capacità tecniche, fanno il giro d'America e per lui è la fama. Ora Samuel può sposarsi. Si è innamorato perdutamente di Lucretia Pickering Walker, una giovane bellissima che conosce a Concordia quando ha solo 16 anni. Chi l'avrebbe mai detto che la sua passione per pennelli e tavolozze lo avrebbe portato tanto lontano e gli avrebbe permesso di realizzare tutti i suoi sogni? Eppure è così. La sua carriera di pittore va a gonfie vele. In 7 anni di matrimonio gli nascono 3 figli e lo Stato di New York gli commissiona niente meno che il ritratto del marchese Gilbert Dumotier, meglio noto come Lafayette, generale napoleonico e supporter della rivoluzione americana. Samuel Morse sta passeggiando per le vie di Washington. Ha lasciato da alcuni giorni New Haven, nel Connecticut, dove vive con la moglie Lucretia e i 3 figli, ed è arrivato nella capitale con un compito molto importante. Il governo gli ha commissionato un quadro di storica importanza, il ritratto del generale napoleonico Lafayette, che si è adoperato tanto alacremente nei confronti del nascente Stato americano. Morse si sente un uomo felice, ha tutto quello che potrebbe desiderare. Una famiglia favolosa, una moglie adorabile e innamorata, 3 figli che crescono bene, una professione che lo appaga in pieno. E cosa che non guasta, un pagherò a vista del governo degli Stati Uniti di ben $1,000. Mentre passeggia nei giardini intorno alla Capitol Hill per cercare ispirazione, Samuel Morse decide di realizzare un quadro ricco di significati. Creerà una sorta di podio con 3 piedistalli. Su uno posizionerà George Washington, su un altro Benjamin Franklin, sul terzo Lafayette. Un meraviglioso e placido paesaggio bucolico farà da sfondo ai 3 statisti, a significare la tranquilla evoluzione dello Stato nascente. Ed è proprio immerso in quel meraviglioso sfondo che sta iniziando a dipingere in quel limpido febbraio del 1825, quando un messo a cavallo gli consegna la lettera di suo padre. Mio amatissimo figlio, misteriose sono le vie della provvidenza. Il mio cuore è colmo di dolore e profondamente dispiaciuto a causa della morte improvvisa della tua amatissima moglie. Complicazioni gravissime sono subentrate ad un suo malore, probabilmente dovuto alle fatiche del recente parto. Samuel non riesce ad andare oltre nella lettura. Sono molte le pagine che il padre ha riempito nel vano tentativo di lenire il suo dolore insanabile, ma il giovane pittore non riesce a proseguire. L'unica cosa che capisce in quel momento è che la sua adorata Lucretia non c'è più e che i suoi bambini sono rimasti senza madre. Nulla conta più per lui, tantomeno il ritratto di Lafayette. Deve partire, rientrare a casa il prima possibile. Mentre in viaggio, ed è il viaggio più triste della sua vita, non fa che pensare a una cosa sola. Per giorni e giorni ha continuato ad essere felice, a pensare al suo quadro, a godersi la magnifica città di Washington, mentre sua moglie combatteva la sua battaglia contro la morte tutta sola. Che disdetta, non poter comunicare a distanza, non avere un sistema, un mezzo, qualcosa che permetta alle persone di avere notizie in tempo reale. Possibile che non ci sia un sistema? Quello che Morse cerca disperatamente è qualcosa che per noi oggi è assolutamente acquisito, le telecomunicazioni a distanza. Darne una definizione non è semplice, come asserisce Massimo Temporelli, curatore del Dipartimento di Comunicazione del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Non è facile rispondere, se non cercando l'etimologia della parola. Tele significa distante, comunicazioni vuol dire comunicare. Telecomunicazioni vuol dire comunicare a distanza. Naturalmente tutto questo si fa con la tecnologia. Una tecnologia che però al tempo di Morse deve essere ancora inventata. Non esistono sistemi veloci per comunicare a distanza in quegli anni e così lo sfortunato pittore non riesce nemmeno a dare l'estremo saluto alla adorata moglie. Questo evento tragico segna profondamente Samuel, che giura a se stesso di dedicarsi anima e corpo allo studio delle comunicazioni. La solitudine che prova e lo sconforto per non avere assistito la moglie diventano per lui uno sprone che non conosce ostacoli. Nel frattempo, ritorna in Europa. Si sta avverando uno dei suoi massimi sogni di pittore, varcare la soglia del Louvre, il mitico museo di Parigi. Fin da ragazzo, da quando ha scoperto le sue innate doti di pittore, il suo sogno è realizzare un'opera gigantesca che riproduca le 38 tele che egli considera le più rappresentative tra quelle conservate nel museo parigino, tutte rivisitate e riunite in un unico quadro, intitolato Galleria del Louvre. Ma ora che si trova lì, ora che tutto nella sua vita è cambiato, quel progetto gli appare solo la follia di un giovane artista. Forse la pittura inizia ad andargli stretta. È il mondo delle telecomunicazioni che inizia a interessargli veramente. E poi il destino ci mette lo zampino. Mentre sta rientrando in patria a bordo del piroscafo Sully, ascolta per puro caso una conversazione. Si chiama elettromagnete o anche elettrocalamita. È costituito da un nucleo di materiale ferromagnetico su cui è avvolto un solenoide, cioè una bobina di molte spire di filo elettrico. Si genera così un campo magnetico che può produrre un lavoro meccanico. Chiudere contatti elettrici nei relè, fa scattare serrature, muovere lancette ed ogni genere di invenzione che la mente umana possa concepire. Charles Thomas Jackson sta rientrando anch'egli in patria sul piroscafo Sully. È un inventore e anche se molto giovane sa il fatto suo. Morse si fa spiegare bene in cosa consista questo elettromagnete. È un'idea che da un po' di tempo gli gira in testa e inizia a dimostrarsi possibile. Sta per nascere una delle invenzioni più rivoluzionarie dell'era moderna, il telegrafo elettrico. L'idea di un sistema che consenta di trasmettere a distanza messaggi in chiaro o cifrati nasce in Morse dal grande dispiacere della perdita di sua moglie Lucretia, ma in realtà non è nuova. La telegrafia ottica con l'uso di segnali, bandiere o luci è anzi molto antica, ma la grande intuizione di Samuel è quella di utilizzare l'elettricità. Gli elementi peculiari della sua invenzione sono un circuito elettrico costituito da un trasmettitore che può comandarne l'apertura o la chiusura a distanza e un apparato ricevitore attivato da un elettromagnete che registra il segnale su una striscia di carta trascinata da un volano. Qui le lettere dell'alfabeto vengono trasformate in un codice convenzionale. Morse non è benestante. Fra l'altro, in seguito al lutto avuto, ha smesso di dipingere e non ha più una professione. Una volta tornato a casa, usa per realizzare un prototipo della sua invenzione materiale di recupero, come la cornice di un quadro per il basamento, una batteria fatta in casa, un elettrocalamita che gli regala Jackson e il meccanismo di un vecchio orologio per muovere la carta su cui vengono registrate le parole. Con le sue conoscenze altolocate acquisite in qualità di eccelso pittore, riesce a presentare questo incredibile apparecchio all'Università di New York, dove ogni tanto insegna storia dell'arte. Con il telegrafo le barriere spazio-temporali vengono abbattute. Se i conduttori sono posizionati in maniera corretta, non ci sono problemi di trasmissione. Non sono un visionario se vi dico che un giorno si potrà parlare direttamente da un lato all'altro degli Stati Uniti o con l'Europa. È il 2 settembre del 1837. L'aula magna dell'Università di New York è gremita di folla. Giovani di ogni origine e provenienza, professori, fisici, chimici, ingegneri, sono tutti attentissimi alle parole di Samuel Morse. Il famoso pittore, insigne e laureato, professore di storia dell'arte, colui che ha ritratto i presidenti degli Stati Uniti, sta ora dimostrando la sua versatilità descrivendo una sua incredibile invenzione. Tra la folla assiepata che si accalca per vedere il prototipo di questo telegrafo elettrico che il maestro tanto decanta, c'è un giovane uomo, poco più che un ragazzo. Se gli altri presenti ascoltano con attenzione, lui fa molto di più. La sua concentrazione è totale e la sua mente sta già volando in un luogo non molto lontano dove egli sa che le idee del maestro possono trasformarsi facilmente in realtà. La strada del telegrafo sta per essere tracciata. Well, a long time ago came a man on a train walking 30 miles with a sack on his back and he put down his load where he thought it was the best. Made a home in the wilderness. Built a cabin and a winter store. And he plowed up the ground by the cool lake shore. The Destini incrociati. Credimi, papà, si tratta di una cosa spettacolare. Un'invenzione così può veramente cambiare la vita delle persone. Ma il professore è squattrinato. Sta cercando un finanziatore. Non perdiamo questa occasione che ci si presenta su un vassoio d'argento. Il proprietario delle ferriere Speedwell, a Morristown, a pochi chilometri da New York, sta leggendo una lettera che gli è stata appena recapitata da parte di suo figlio. L'uomo è abituato agli entusiasmi del giovanotto, è uno che si infervora facilmente, ma effettivamente questa volta qualcosa gli dice che il suo giovane erede ha ragione. Il giovanotto si è trovato per caso ad assistere a una dimostrazione del grande pittore Samuel Morse all'Università di New York. Ma non si tratta di una lezione di pittura, come parrebbe più logico. Si tratta di tutt'altro. Morse ha inventato uno strumento che sembrerebbe in grado di comunicare anche a notevole distanza, in tempo reale. E non attraverso un'apparecchiatura visiva, segnali di fumo o altro, ma attraverso impulsi elettrici. Insomma, qualcosa di rivoluzionario. Il giovane che lo sta ascoltando è totalmente rapito dalla spiegazione del maestro. Non è un suo allievo, lui studia teologia. Il suo nome è Alfred Vail. Alfred Vail. È un puro caso che egli si trovi lì in quel momento. Alcuni suoi amici universitari lo hanno invitato alla dimostrazione di Morse perché conoscono il suo interesse per la tecnologia e le invenzioni, che risale a molti anni prima, addirittura a quando è piccolissimo. Speedwell, la tenuta dei Vail, è un luogo incantevole. Morristown è una cittadina tranquilla a una trentina di chilometri da New York, immersa nel verde e nella pace. Ma non è stato sempre così, anzi, la guerra di indipendenza, solo 50 anni prima, l'ha vista teatro di aspri conflitti, tanto che è stata spesso indicata come la capitale militare di quel periodo, come ricorda Michael Anderson, sovrintendente del parco storico di Morristown. Quello che adesso vedete, un luogo calmo e sereno, pastorale, era allora la sede di un accampamento fra i più grandi del paese. Era terribile, brutale, difficile, pieno di fango ed è qui che lo spirito della libertà ha dovuto combattere più duramente per sopravvivere, quando tutto il resto era in pericolo. Ma a distanza di 50 anni tutto è tornato alla normalità. La campagna è nuovamente pacifica e bellissima e la cittadina tranquilla. È qui che Stephen Vail, imprenditore di grande intelligenza, crea una fabbrica del ferro, la Speedwell Iron Works, dove vengono prodotti macchinari agricoli, attrezzi da lavoro, ma anche locomotive e in particolare un tipo di ruota che non subisce deformazioni o rotture anche sotto l'enorme peso delle motrici più pesanti. È in questo clima estremamente vivace e fertile che nasce e cresce Alfred Vail, secondo di 4 figli. A differenza del fratello George, decisamente interessato all'attività paterna e tutto preso dalla fabbrica di ferro, Alfred dimostra fin da piccolino due interessi molto distanti l'uno dall'altro: la religione e le invenzioni. Parla spesso di quello che gli piacerebbe fare da grande, il prelato presbiteriano, e benché sia solo un bambino, appare talmente determinato da convincere tutti. Al tempo stesso ha una passione incontenibile per tutto ciò che è nuovo, per le scoperte che in quell'inizio di secolo cominciano a far capolino. Grazie al lavoro del padre, Alfred entra in contatto in particolare con la nascente industria ferroviaria e rimane folgorato dalla Rocket, la prima locomotiva a vapore costruita da George Robert Stevenson nel 1829. Stephen Vail, imprenditore di Morristown nel New Jersey, vorrebbe che il figlio Alfred lavorasse attivamente nella sua fabbrica del ferro, la Speedwell Iron Works, come il fratello minore George. Ma Alfred desidera diventare prelato ed è per questo motivo che si iscrive all'Università di New York, dove studia teologia con grande profitto fino a laurearsi. Ma la sua vita segue strani percorsi e avviene quasi per caso che egli assista alla dimostrazione del telegrafo del professor Morse, che tutti alla facoltà conoscono perché è un pittore molto famoso. Di lui si dice che sia caduto in disgrazia dopo la morte della moglie, che abbia perso la vena creativa e che sia anche in bolletta. Si dice che sia fissato con l'idea di inventare un sistema per trasmettere messaggi a distanza, per molti una vera follia. Ma Alfred Vail, che quando sente la parola invenzione non sta più nella pelle, è in prima fila nell'aula magna dell'Università di New York. Mentre il maestro sta parlando, Alfred lo ascolta rapito. Quello che vede lo convince talmente tanto che scrive immediatamente al padre. Stephen Vail gli risponde prontamente, dimostrando che la sua vena imprenditoriale non si è affatto esaurita. Invitalo a Speedwell, caro figlio. Vediamo se questo telegrafo elettrico può essere davvero un affare come dici tu. Samuel Morse è sicuramente un grande pittore, ma il suo ingegno tecnico è ancora tutto da dimostrare. Il maestro sta ascoltando quel giovane tanto entusiasta che gli si è parato davanti. Sono passati solo alcuni giorni dalla sua dimostrazione del telegrafo all'università. E questo Alfred Vail lo prega di seguirlo a Speedwell, dove ha una lucrosa attività con il padre e il fratello. Morse ha sentito parlare della loro fabbrica del ferro e non ha dubbi sul fatto che possano aiutarlo. D'altronde lui è in bolletta totale. Anche se si tratta solo di un prototipo e anche molto rudimentale, i Vail concordano sulla bontà dell'invenzione di Samuel Morse e decidono di finanziarla. Alfred, in particolare, pare avere abbandonato di botto la sua vocazione. Sembra che non gli interessi più diventare un prelato, ma che lo attiri molto di più il pensiero di partecipare a questa scoperta sensazionale. Viene così stipulato un contratto notarile. AD 23 settembre 1837. Alla mia presenza si conviene quanto segue. Il signor Alfred Vail si impegna a costruire entro il 1 gennaio 1838 un modello di telegrafo da presentare al Comitato del Congresso di Washington. A suo carico sono tutte le spese e i costi di brevetto. Esso va registrato a nome ed esclusivo beneficio del signor Samuel Morse. Il signor Alfred Vail riceverà un quarto di tutti i diritti statunitensi, oltre alla metà di quelli di Francia, Inghilterra, Scozia ed Irlanda. In caso che le suddette parti facciano nuove scoperte o qualsiasi nuova invenzione, la proprietà sarà di entrambi con la stessa proporzione dei loro rispettivi diritti sulla totalità. Consci della situazione quasi indigente di Morse, Alfred Vail e suo padre commissionano al maestro i ritratti di tutta la famiglia, così da permettergli di mantenersi degnamente. Nel frattempo Alfred si mette all'opera. Con il suo fido assistente William Baxter costruisce un primo prototipo di telegrafo. Il risultato è però alquanto deludente. Alfred non vuole mancare di rispetto al suo professore e quindi ottiene praticamente una copia del telegrafo realizzato da Morse con oggetti di recupero. Man mano che i due tecnici prendono confidenza col maestro, però, si rendono conto che le sue conoscenze pratiche lasciano alquanto a desiderare. Alfred Vail comprende che deve darsi da fare da solo. Quanto ideato da Morse è assolutamente incompleto e il cammino verso la telegrafia come la conosciamo noi oggi è ancora molto lungo. You're with me till the bitter end. What we had transcends this experience too painful to talk about, so I hold it in. Destini incrociati. In principio Morse era convinto di poter avere una parte predominante nella costruzione del telegrafo, ma dovette ricredersi, non aveva le conoscenze tecniche. Alfred Vail si occupò di tutti gli sviluppi tecnici e lo fece qui. Sharon Raider, direttrice del sito storico di Speedwell, è molto orgogliosa del luogo che dirige e ha ragione. È proprio lì a Speedwell, nella proprietà della famiglia Vail, che fu costruito il primo telegrafo mai realizzato al mondo. Ideata da Samuel Morse in maniera alquanto approssimativa e da lui presentata all'Università di New York, questa incredibile invenzione attira l'attenzione di un giovane studente, Alfred Vail, che possiede proprio a Speedwell una fabbrica di ferro, la Iron Works, fondata dal padre Stephen e che manda avanti anche con il fratello George. Alfred possiede tutte quelle competenze tecniche che mancano totalmente a Samuel Morse, famosissimo pittore e uomo di indubbie capacità di inventiva, ma assolutamente privo di conoscenze pratiche. Per mesi e mesi Alfred lavora alacremente al telegrafo di Morse, apportando una serie di modifiche e migliorie che ne rendano possibile l'utilizzo. Realizza il braccio mobile orizzontale per l'azionamento della penna e dello stilo del registratore telegrafico, grazie al quale lo strumento di scrittura effettua un movimento verticale e non orizzontale rispetto alla carta. Inventa il tasto telegrafico, ma soprattutto il suo contributo è legato al codice di scrittura. Il suo assistente William Baxter descrive la genesi di questa scoperta nelle sue memorie. Morse ha creato un sistema codificato estremamente complesso, dando a ciascuna parola un numero. Quando arriva il segnale numerico, chi sta dall'altra parte riceve il messaggio, deve andarsi a scartabellare migliaia di pagine nel libro dei codici per trovare il numero che corrisponde alla parola. Questo sistema è lungo e complesso. Alfred è certo di poter fare di meglio. Il giovane inventore e il suo assistente stanno lavorando nel loro laboratorio a Speedwell. Alfred sta analizzando il codice inventato da Samuel Morse. Le singole cifre di ogni numero vengono individuate contando i denti causati dal movimento del pennino sulla carta. Ai tempi di trasmissione vanno quindi aggiunti quelli di conversione dal numero alla parola. Troppo complicato. Ci vuole un codice universale, qualcosa che chiunque, senza bisogno di libroni né di grandi numeri, possa comprendere e riconvertire velocemente in parole. L'unico sistema, il più semplice, è quello di creare un segnale per ogni lettera dell'alfabeto, come ricorda ancora Sharon Rader. Vail, in un paio di mesi, matura l'idea di come mandare i messaggi, e cioè lettera per lettera. Lo aiuta il suo assistente William Baxter. Leggono e rileggono i giornali per cercare la lettera più usata alla quale attribuire il segnale più breve. Dopo aver iniziato a fare dei calcoli per accertare la frequenza relativa delle diverse lettere dell'alfabeto inglese, Alfred è colpito da un'improvvisa ispirazione. Lascia il fido William nel suo laboratorio e si dirige come una furia verso l'ufficio del giornale locale di Morristown. La soluzione al suo problema è lì, risolta nella cassetta dei caratteri del tipografo. Il casellario che contiene la lettera gli rivela che quella con maggior frequenza, di cui il tipografo ha più bisogno nella composizione degli articoli, è la lettera E. Alfred le attribuisce il segno di un semplicissimo puntino. Nasce da questa banale ma portentosa intuizione l'alfabeto del telegrafo Morse. Ellittico, da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni, per accorciar parole, per essere più breve, nella necessità. Conobbe Alba, un'alba, poco alba, neppure mattiniera, anzi, mulatta, che un giorno fuggì, l'unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli. Alfred Vail si attiene perfettamente agli accordi presi con Samuel Morse. Per la fine dell'anno 1837, il prototipo del telegrafo è finito, così come il suo codice, basato su una sequenza di punti e di linee che identificano ogni singola lettera dell'alfabeto. Tutto è pronto per una dimostrazione per pochi intimi, che si tiene la fredda mattina del 6 gennaio 1838. Alfred ha fatto costruire 3 chilometri di linea elettrica fra la sede della Ironworks e una casetta dislocata in aperta campagna. Samuel Morse è decisamente emozionato quando scrive il primo messaggio mai inviato al mondo con il suo telegrafo. A patient waiter is no loser. Chi sa aspettare con pazienza non è mai un perdente. Alfred Vail, dall'altro capo del filo, riceve il messaggio con altrettanta emozione. Il telegrafo è ormai una certezza, ma necessita di un ingente investimento per poter costruire una rete che nella mente dei suoi ideatori dovrebbe lentamente diramarsi in tutti gli angoli del paese. Ecco perché Morse e Vail partono per una serie di dimostrazioni. A Filadelfia, al Franklin Institute, ai membri del Congresso e a Martin Van Buren, ottavo presidente degli Stati Uniti d'America. Alcune settimane dopo essere rientrati a Speedwell, Morse riceve una lettera che reca il timbro del Congresso degli Stati Uniti d'America. È con infinito piacere che vi comunichiamo la decisione del presidente Van Buren e del Consiglio del Congresso di accordarvi la somma di dollari 30.000 per la progettazione e realizzazione della linea telegrafica da voi propostaci tra Washington e Baltimora. A lei, professor Morse, e ad Alfred Vail, il nostro sentito ringraziamento per un'invenzione che rivoluziona il mondo delle comunicazioni a distanza. Morse e Vail si abbracciano. Questo è il coronamento dei loro sforzi. Il telegrafo è senz'altro destinato a diffondersi in maniera totale e a varcare l'oceano. Li attende un periodo di duro lavoro, ma la soddisfazione è maggiore di qualsiasi fatica. È una calda mattina, quella del 24 maggio 1844. Nella sala del Campidoglio a Washington è tutto pronto. Samuel Morse e Alfred Vail hanno lavorato per anni, seguito da vicino i lavori per la costruzione della linea telegrafica tra Washington e Baltimora, della lunghezza di 64 chilometri. E ora si sta per realizzare il sogno della loro vita, una trasmissione a distanza. Il primo messaggio ufficiale spedito a Baltimora è una citazione biblica, «What hath God wrote?» «Cosa ha fatto Dio?» Ma forse sarebbe stato più appropriato dire «Cosa hanno fatto questi due inventori?» L'evento è sicuramente uno dei più grandiosi nella storia delle conquiste dell'uomo, come sostiene Glenn Bruno, specialista in manoscritti di scienza e tecnologia della Libreria del Congresso di Washington. Fu l'inizio della rivoluzione delle telecomunicazioni. Per portare un messaggio da A a B, dovevi trasportarlo fisicamente. Dovevi camminare, correre, con un cavallo, una barca o essere in contatto visivo. Ma in quel giorno, il 24 maggio 1844, Samuel Morse ha usato una batteria e dei cavi molto solidi che univano Washington a Baltimora. La gente sapeva che si poteva spedire l'elettricità attraverso un cavo e che qualcosa sarebbe successo dall'altra parte. Ma il genio di Morse fu che egli riuscì a comunicare istantaneamente. Egli riuscì a inviare un messaggio da A a B istantaneamente. Gli sviluppi successivi sono più o meno noti a tutti. La rete telegrafica, così come auspicato dai suoi inventori, si ramifica letteralmente in ogni paese del mondo, portando i messaggi della gente da un capo all'altro del pianeta. L'alfabeto Morse diventa il codice di trasmissione universale e tutto il mondo lo adotta, mantenendolo inalterato nel tempo. Ma viene da domandarsi, come mai non si fa cenno ad Alfred Vail? Eppure egli ha un ruolo determinante nella realizzazione pratica del telegrafo ed è a lui che si deve l'invenzione del codice che tutti conosciamo come codice Morse. E ancora Sharon Ryder, grande esperta della storia di Vail e Morse, a chiarirci le idee. La famiglia Vail accettò che tutto quanto venisse depositato con il nome di Morse. I Vail furono forse un po' ingenui e lo fecero perché il professor Morse era molto anziano e poi anche perché era un uomo famoso. E così, inevitabilmente, Vail è stato dimenticato.